A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia per A tempo di sport, che ve lo ricordo da lunedì prossimo cambierà faccia, volto, stile, musiche, suoni, ma vi lascio in sospeso. Prima di tuffarci nel torrente delle lacrime dell'Udinese e di questo presunto omago, questo pensate un po' al soprannome di Michael Suella, brasiliano nemmeno poi tanto giovane, 26 anni all'anagrafe, che ieri ha tirato quel rigore che lascio a voi definire con le telefonate 800 24 00 24, con gli sms 349 238 6666. Però non dimentico che ogni promessa è debito. Ieri ascoltatori ci domandavano questioni tecniche anche sul ruolo dell'arbitro di porto, di linea di fondo, di area di rigore, non so più come chiamarlo. Allora, un ex principe del fischietto, Graziano Cesari, grazie. Grazie a te, buongiorno. Allora, come si chiama, tanto per cominciare? Si chiamano arbitri addizionali di area. Adesso me lo scrivo, così non mi sbaglio più. Difficile, Ma dai, giudici di porta che è più facile, dai. Senti, ma come si muove? Qual è il suo ruolo tecnicamente? Tecnicamente ha un potere sia decisionale che disciplinare, quindi può dare calci di rigore, può dare calci di punizione in favore dei difendenti, può procedere all'ammonizione e all'espulsione dei calciatori. Arbitro, quindi, a tutti gli effetti. Arbitro a tutti gli effetti. Dove opera? Opera dalla parte sinistra del portiere. Se ricordai che in origine erano spostati alla parte destra, sì, perché adesso è stato cambiato la linea di porta, diciamo così, perché può operare nell'angolo buio dove il direttore di gara centrale non va mai. Il direttore di gara centrale cosa fa? Corre su un binario immaginario che va da vertice a vertice dell'area di rigore opposta a quello dove degli assistenti. Quindi in teoria quello è sempre nascosto. Hanno messo l'arbitro addizionale appunto per quello, per dare un aiuto al direttore di gara centrale e per mallevare che cosa? L'assistente dal famoso gol o non gol in out rispetto alla linea di porta. Quindi l'assistente si deve preoccupare solamente in occasione dei calci piazzati, dei calci dal limite, dei calci di punizione o dei calci da gol solamente una posizione di fuori gioco e basta. Quando ci riesce, perché sabato a Torino non c'è nemmeno riuscito. Neanche riuscito. Graziano, ma a te piace questa soluzione? A me piace piace innanzitutto perché potrebbe essere un deterrente verso quei match di lotta greco-romana che abbiamo durante l'area di rigore, perché quello è veramente schifoso. E poi piace perché in attesa di un movimento meccanico che finalmente decida che sia chiaro e sia lampante, almeno troviamo una soluzione che non è sicuramente quella definitiva, però può aiutare, insomma. Sì. Domenica scorsa a Torino, io non so se la palla è entrata oppure no, perché non c'è nessuna immagine chiara, chi dice di sì, chi dice di no, ma questa è una convinzione assolutamente personale. Però dobbiamo dare atto che lui era proprio lì. Certo. E quindi la sua presenza lì. Poi il modo con cui è arrivato questo gol, il tempo intercorso, quello è tutto da dire, cioè secondo me c'è una segnalazione eccezionale, lui deve essere pronto ad indicare almeno platealmente con le mani che ci va verso il centro del campo, non si può essere così indecisi. Secondo te ci possono essere dei problemi, diciamo così, di rapporti con l'arbitro centrale? Certo, l'abbiamo visto a Pechino, quando l'arbitro centrale Mazzolini è un arbitro internazionale a prime armi, lì operano due santoni dell'arbitraggio che sono Rizzone e Tagliavento, ed è chiaro che potrebbe essere in difficoltà l'arbitro centrale, l'abbiamo visto. Intanto siamo già alle polemiche secche, soprattutto sull'asse Napoli-Torino, quindi io non credo che l'arbitro addizionale possa spegnerle in tutta onestà. No, assolutamente, non credo neanch'io. Qui si tratta sempre e semplicemente di cultura, ma la nostra cultura, la cultura mediterranea, è una cultura che ha bisogno di queste cose. Noi viviamo di queste cose, altrimenti i presidenti come potrebbero fare per giustificare una campagna acquisti deficitaria? L'allenatore come potrebbe fare per scegliere il calciatore e poi dire ma forse mi sono sbagliato? Cioè, ci sta l'arbitro. L'arbitro è sempre stato una delle componenti del gioco del calcio, è quella nettamente, quella più parlata, quella più attaccata. Guarda, quello che dico io è che se le polemiche avessero un valore di mercato, invece di rubarci i giocatori, potremmo venderne all'estero a bizzeffe. Sono sicuro, anzi, sarebbe un magnifico incremento del PIL. Bravo, Graziano. Senti, due lampi di calcio per chiudere. Della prima di campionato, che cosa ti è rimasto? Mi è rimasta la sensazione di qualche squadra che sia nettamente inferiore alle altre, e mi spiego. Penso e presumo che ci siano due tronconi, squadre in e squadre un po' meno in, e non ti dico nient'altro, però posso dirti tre squadre in: Juve, Inter e Napoli. con la Roma come outsider. In quest'ordine? In quest'ordine, sì. Inter, Juve, Napoli, hai detto? Ho detto, sì, Inter, Juve, Napoli, perché a me l'Inter piace molto, piace moltissimo, moltissimo, moltissimo. A Pescara non si può soffrire i 15 minuti e poi fare subito un'azione in un gol, significa che hai dei fuori classe che gli altri non hanno, è evidente. È cresciuta molto l'autostima dell'Inter, chissà se per l'arrivo di Cassano o per qualcos'altro. Invece l'Udinese che va, questo psicodramma udinese, come lo valuti? Oggi Guidolini è andato a parlare con Pozzo, ha detto, probabilmente si è messo a piangere, ha detto... Non lo so, perché ieri sera ho visto Guidolini distrutto. Distrutto, vabbè. Distrutto. L'immagine più bella è quella del fotografo dietro la porta quando il mago batte il calcio di rigore. L'ha mandato letteralmente a quel paese, perché non si può, cioè, voglio dire, si può sbagliare un calcio di rigore, ma tira una bombata, stacca la porta, fa quello che vuoi, tira in tribuna, ma non dai. Innanzitutto ha fatto la pia di spettatore, ha fatto la pia quel fotografo che l'ha finalmente mandato lì, e in più ha fatto la pia anche il portiere, perché insomma, mi ha detto, ma oh, che fai? Comunque oggi è salito al Quirinale e ha rimesso il mandato, ma dimissioni respinte, Pozzo ha detto si va avanti con lui, mi sembra il minimo, insomma. Guarda, ieri sera proprio distrutto, perché poi la considerazione finale è stata amarissima, si vede che io non posso partecipare alla Champions, cioè, questa è una considerazione amarissima di un allenatore che è sempre lì per... Poi non so se la preparazione è iniziata tardi, non so se ha fatto bene a fare il turnover con la Juventus, ma queste sono cose che non mi interessano, non voglio neanche sapere. So che i giocatori devono dare molto di più, specialmente in quell'occasione. Grazie Graziano, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie davvero Graziano Cesari. Dunque mi sembra che abbiamo capito tutto, no? Sulle funzioni e le mansioni dell'arbitro. Già non me lo so scritto, chiedo venia, non avevo tempo, avevo le mani impegnate con i computer. Non mi ricordo già più come si chiama, però ci siamo capiti. 800 24 00 24, numero verde, c'è subito Ivan da Como prima del traffico. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Salve, sono Ivan. Sì. Niente, io ho 42 anni, passavo oggi da Cisello Bastavo Monza, e niente, ho visto che c'era il memorial di Gaetano Scirea riservato ai giovanissimi under 14. Sì. Volevo segnalarlo. Ha fatto benissimo. Infatti ho trovato l'opuscolo, caso strano, in un'agenzia di scommesse, va bene, della zona, però niente, mi è balzo all'occhio la scritta che Gaetano Scirea è stato l'unico giocatore al mondo che ha vinto tutte le competizioni alle quali ha partecipato, quindi dai mondiali dell'82, Scudetti, Coppa Italia, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Supercoppa, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale. Certo, e questo torneo mi sembra il modo migliore per ricordarlo. Io la ringrazio per averlo ricordato pubblicamente alla nostra platea radiofonica. Grazie Ivan. 800 24 00 24 è il numero verde. C'è chi scrive: io ho perso un torneo serale per un cucchiaio sbagliato da un mio compagno e quando ci penso ancora mi arrabbio. Complimenti per la plomba ai giocatori dell'Udinese. Io mi sarei imbelvito. Lori da Milano. Sì, poi vediamo cosa è successo nello spogliatoio. Comunque complimenti per la plomba in campo quantomeno dei giocatori dell'Udinese. Traffico, poi ci tuffiamo in questo torrente di lacrime di Udine, perché è stata insomma curiosa anche la vicenda di oggi con Guidolin, che appunto è salito al Quirinale da Pozzo dicendo: che facciamo, andiamo avanti così, prendete un altro allenatore, io in Champions League destino che non ci possa e non ci debba andare. Pozzo ha detto: no, vai tranquillo, continua tu. 800 24 00 24 numero verde. Mentre la Fiorentina prende Berbatov, che è sbarcato a Firenze, dovrebbe firmare contratto, addirittura sentivo prima allenarsi già nel pomeriggio, quindi sempre più competitiva, sempre più intrigante la Fiorentina, che ha respinto al mittente tutte le richieste, sono state tante, con i soldi contanti freschi in mano per Jovetic. Ora arriva anche Berbatov. C'è quell'altra vicenda interessante di mercato di cui poi parleremo, e che è quella relativa a Drogba, di cui si parla molto, perché a quanto pare, l'avrete letto e sentito, si diceva anche questa mattina nel GR Sport, il club cinese che ha ingaggiato sia Drogba che Anelka ha avuto dei problemi interni, dispute tra proprietari, morale, i quattrini non arrivano e le due superstar sono pronti a fare le valigie. Per dove lo scopriremo. Ennio da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo esprimere così una considerazione in merito a questo inizio di campionato con un arbitro e quattro assistenti. Sì. E adesso non so in particolare quali siano le, come posso dire, i ruoli, le competenze dell'uno e l'altro. Le immagini, l'abbiamo spiegato prima. Sì, sì, ho sentito. Però alla fine quello che risulta, a parte la partita di Torino, della Juventus, per esempio la partita Roma-Catania, noi abbiamo visto che con cinque arbitri, cinque signori che stanno lì a vedere, la partita è finita 2-2 con due gol segnati dalla Roma, due protezze e due gol in palese fuorigioco. Quindi alla fine insomma, non mi sembra che funzioni tanto. Alla fine il compito di segnare il fuorigioco è e rimane del guardalinee, quindi l'abbiamo sentito anche prima in maniera molto chiara, cioè il guardalinee deve occuparsi di quello, quindi errori di questo tipo ne abbiamo visti, ne continueremo a vedere e ne vedremmo anche se al posto dell'arbitro dell'area di rigore ci fosse un microchip nel pallone, perché questo non servirebbe a risolvere il problema del fuorigioco, che è un problema che è una possibilità di errore che rimane. Mauro da Modena, 800 24 00 24, oppure sms 349 238 6666, numero verde. C'è chi scrive: sono contento per Pozzo, sono 3 anni che impediscono a presidenti che vogliono investire ad andare in Champions e Pozzo continua solo a vendere ma continua anche a costruire, quindi io non sono contento per Pozzo, non sono contento per Udinese, non sono contento per Guidolin. Mauro da Modena. Buongiorno signor Genta. Buongiorno Mauro. Volevo fare una disquisizione sulla campagna acquisti della Juventus per quello che riguarda questa punta che fantomatica, che non si sa se arriva o non arriva. Se fosse Drogba, lei che direbbe? Ah, io sarei felicissimo. Per me sarebbe, io è il migliore che c'è in assoluto, anche nonostante l'età, Però io quello che volevo dire, i nomi che si fanno, che si leggono, indipendentemente dal valore, che fosse Bender l'ultima che ho sentito, Bender, sì, oppure Jovitic, oppure Zecco, oppure gli Oriente, ma che ci azzecca gli Oriente con Jovetic, indipendentemente dal valore? Sono giocatori completamente diversi. O sì, non si hanno le idee chiare, o no, se no mi devono dire, perché sì, cioè, evidentemente si cercano profili differenti, non necessariamente una prima punta, cioè si cercano dei giocatori con determinate caratteristiche. Anche gli Oriente non mi pare lo sia, quindi non credo sia una ricerca di comprare qualcuno tanto per comprare qualcuno. Evidentemente hanno idee su come collocare questi giocatori, no Mauro? Sì, no, è vero, però per esempio la valutazione superiore di Loriente rispetto a quella di Jovetic, secondo me è fuori da ogni logica. Ma quello lo credo anch'io, anche perché stiamo parlando comunque di un giocatore molto giovane che è Jovetic, che ha esperienza del nostro campionato nonostante un infortunio serio alle spalle che l'ha tenuto fuori per molto tempo e che ha dei numeri straordinari. Llorente, c'è l'amico Filippo Maria Ricci che continua a dire che comunque è un giocatore importante, però è più in là con gli anni e costa secondo me troppi soldi per questo momento del mercato, perché non si tratta di una superstar conclamata che è abituata al clima della Champions League. Tra l'altro si tratta di un giocatore di una squadra spagnola di seconda fascia, dunque non credo possano essere giustificati tutti quei quattrini. 800 24 00 24, ecco Lorenzo da Vicenza che mi definisce il rigore di Michael Swell. Sì, salve, buongiorno, sono Azienda e complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, io chiamavo perché ieri sera ho avuto un po' di rabbia nel vedere quel rigore lì calciato da un ragazzino da 20 anni, come se avesse un'esperienza. No, ne ha 26, attenzione. Ne ha 26. Nel senso che in una situazione del genere, se si tira un calcio di rigore così, come gli segnavano, tira forte e dove va? Quello che volevo dire, insomma. Sì. Sei Pirlo e puoi permetterti delle licenze poetiche? Ecco, esatto. In un caso così mi sembra strano che mai non si siano messi d'accordo, anche magari non si sia consultato con qualche compagno come tirarlo, consultarsi. posso tirarlo così, cioè, siccome è stato un po' tardato, diciamo, penso che anche il presidente Pozzo ne sia arrabbiato, secondo me. Chi non si è arrabbiato? Mi sono arrabbiato io, si è arrabbiato lei, si è arrabbiata credo tutta Italia, perché l'Udinese è una squadra per cui tutta Italia faceva il tifo, dicevo ieri, la squadra più trasversale che può esistere, vediamo, quasi come giocasse la nazionale, no? Vediamo un rigore tirato così, poi c'è anche chi mi scrive: se Hart non si fosse mosso anche Pirlo sarebbe stato messo in croce. Però sì, Arce mosso e Pirlo è Pirlo, non è Michael Suella. Grazie Lorenzo. Io vado, mi tuffo direttamente nel fiume delle lacrime con Piero Leotto, responsabile dello sport del Messaggero Veneto. Ciao Pietro. Ciao. Allora. Più che altro il mare dell'insicurezza, le onde che ha sollevato questa eliminazione, perché adesso siamo qua a cercare di capire se Guidolin resta o non resta. Pozzo ha avuto colloquio con mi senti? Sì, ti sento, ma resta, sì. Dicono no, ma tu ne sai sicuramente di più, ma dicono che resti. Guarda, so che ha avuto un colloquio, che Pozzo è convinto che Guidolin resti, ma so anche che Guidolin si aspetta che arrivi qualche giocatore d'esperienza per il campionato italiano, perché proprio questa eliminazione ha portato a galla questo problema. Cioè, è difficile sostituire 3-4 giocatori importanti, già rodati nel campionato italiano, con giocatori nuovi che magari fra 6 mesi esploderanno. Al di là di questo cucchiaio, magari Michael risavirà, Williams giocherà la palla sempre di prima e non si rifugerà naturalmente in difesa. Però appunto sul tappeto rimane questo problema qui. Penso che lo scontro, chiamiamolo così, scontro, cioè la dialettica tra Pozzo e Guidolin sia questa, cioè penso che Guidolin non, dal punto di vista delle pressioni, sai che lui è uno molto ansioso così, non ce la faccia più a rigenerare ogni volta la squadra ogni estate per dopo presentarla ai pronti preliminari di Champions League. Sì. Beh, però sai che la politica è quella, sembra infatti, che... Ma non si discute per una società di provincia, insomma, come l'Udinese, insomma, penso che non ci siano altre vie. No, quindi, certo, anche se poi vai a leggere una formazione che ha proposto prima Sky, che ho sotto gli occhi: Andanovic, Ljukovic, sì, Zapata, sì. Felipe, Asamoah, D'Agostino, Inler, Isla, Pepe a centrocampo, sì. Sanchez e Floro Flores in attacco. Giocatori che sono andati via è un'altra cosa, però io sono uno strenuo sostenitore della politica di Pozzo. Anche a me questo Udinese sembra notevolmente indebolita rispetto all'anno passato. Sì, almeno secondo me così, di primo acchito, io lo seguo da tanto tempo, sembra aver meno talento delle altre squadre, dopo, per l'amor di Dio, magari ci sono tanti giocatori sudamericani, hanno magari bisogno di più tempo, no? di giocatori europei, magari questo è il problema. Però effettivamente adesso sul momento c'è meno talento, si tocca con mano meno talento, e ieri insomma è venuto fuori questo, è emerso questo. Sì. Senti, ma a questo punto, se dovesse andare via Guidolin, si è già fatto il nome di Reia. Io non credo che ci possa essere questa rivoluzione. Guidolin ieri ha detto a caldo: tutta colpa mia, esaminerò le mie colpe. Si è preso anche, secondo me, responsabilità non sue. Le sue quali sono, a tuo parere? Ma le sue, secondo me, cioè, ribadisco, lui è uno estremamente così ansioso, estremamente sensibile anche nel preparare le partite. Forse si è fatto troppi problemi rispetto a quelli che hai capito c'erano realmente. Cioè, io magari avrei tenuto certi altri giocatori dentro, avrei cambiato il meno possibile. Cioè, io questo Williams non l'avrei messo dentro, per esempio, te lo dico subito. Avrei preferito magari vedere in campo subito Badu, che è 2-3 anni che si allena con l'Udinese, e l'Udinese la conosce, anche se magari adesso è meno forte di Asamoah. Ecco, questo è il discorso, insomma, perché il vero giocatore che ha mancato ieri è l'Udinese, Asamoah. Tu l'hai visto giocare la prima partita con lo Juventus, puoi aver anche capito perché. Lo sapevo già prima, Pietro. Lo sapevo già prima, tanto che ho detto benissimo. Lo dico per i tuoi giocatori che a me, guarda, a me piacciono da morire, Asamoah e Isla, che possono quanto danno alla Juventus, tu che li hai visti per tante stagioni? Possono dar tanto, perché sono giocatori anche molto versatili. Sì, versatili, esattamente, universali, cioè riesce a metterli in qualunque posto del... Io l'ho visto giocare veramente dappertutto. Isla ha fatto il terzino destro, ha fatto la mezzala, ha fatto l'esterno destro, ha fatto addirittura l'attaccante nel tridente, ce l'ho visto quindi da 4 anni, cioè Asamoah, l'avevo visto giocare esterno sinistro già un paio d'anni fa con Marino, poi ha fatto la mezzala, col Ghana ha fatto il regista, quindi sono giocatori veramente di talento e soprattutto fisicamente molto molto competitivi a livello internazionale, la Juventus ha visto molto bene. Grazie Pietro, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Pietro Leotto, messaggero Veneto 800240024, invece il numero verde. Andrea scrive: credo che se la terza squadra italiana non batte 3-0 la terza o seconda portoghese siamo messi male, a rigori o non rigori. Bisogna aggiornarsi, Andrea, basta andare a leggere la composizione delle semifinali dell'ultima Europa League. Questi sono luoghi comuni. In realtà il calcio portoghese è un calcio in forte crescita. Giocano, ad esempio, hanno giocato di recente l'Europa League in maniera molto seria e hanno presentato 2 squadre in finale. Salvatore da Roma. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire appunto su un mio pensiero su Guidolin, un'idea che mi sono fatta ieri sera. Perché secondo me potrebbe anche esserci questo, una frustrazione personale sua, dell'allenatore, perché non è un impiegato, non è un manager o top manager che prende un signor stipendio e quindi fa il suo lavoro per portare frutti all'azienda, quindi producendo in questo caso ottimi giocatori poi da rivendere profondamente sul mercato, ma c'è anche l'uomo di sport che vorrebbe vedere una volta almeno coronata il suo lavoro, le sue cose, con una soddisfazione personale. Nel suo caso è quella di approdare alle fasi della Champions League. Può essere che Salvatore da Roma abbia visto giusto, che Guidolin appunto si sia sentito frustrato per non aver avuto i mezzi tecnici per coronare il suo sogno. C'è chi scrive come gli ascoltatori SMS 349-238-6666, non so se ne avete già parlato, ma Bojan al Milan significa che Allegri vuole fare contento Berlusconi con una formazione che strizzi l'occhio al Barcellona, bastasse Bojan. Io credo che il Milan sia andato su un giocatore che costasse il meno possibile per mettere un po' di sostanza in una squadra che, abbiamo visto, chiaramente non ce l'ha. C'è chi scrive anche su Twitter ed è l'illustre collega della Gazzetta Carlo Laudisa, notizia confermata peraltro dal sito dello stesso quotidiano Rosa. Contrariamente alle attese, Berbatov non è ancora atterrato a Firenze. La domanda: che ci sia lo zampino della Juventus, lo scopriremo vivendo, magari già oggi. Magari ce lo dice Monica Colombo, inviata del Corriere della Sera. Ciao Monica. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, sai qualcosa di questo giallo-viola? Ma in effetti Berbatov era stato dato in partenza poche ore fa in direzione Firenze. Ha sbagliato l'aereo? Sì, tra l'altro c'era anche un dirigente viola ad aspettarlo all'aeroporto. Tutto era pronto per la firma sul contratto triennale a 1,8 più bonus, e invece a quanto pare, invece di chercher la femme, chercher l'homme, chissà dov'è finito, serve Poirot. Intanto tu oggi scrivi nel servizio di apertura dello sport del Corriere della Sera di questa notizia che già era rimbalzata ieri e che è onestamente molto intrigante, cioè... accennavo prima, i cinesi si scazzano un po' tra loro all'interno di questa società di Shanghai, i quattrini non arrivano, promessi e tantissimi, nelle tasche di Drogba e di dell'altro, come chi è l'altro? Ricordamelo, che mi sfugge il nome. Anelka. Bravissima, Anelka, non mi veniva. Insomma, i quattrini non arrivano e adesso la Juventus ha questo pensierino. Ma diciamo che anche se è una pista che un po' tutti abbiamo seguito, è giusto sottolineare che è più una suggestione che non una trattativa con molte possibilità di sbocco, nel senso che i giorni a disposizione per la chiusura dell'affare ormai sono veramente pochi, sì. E i soldi che invece sarebbero necessari, diciamo, per la conclusione dell'affare sono tanti, quindi non so se in effetti ci saranno i tempi tecnici per riuscire a portare avanti questo discorso, tant'è che ieri sera da Torino arrivava invece forte la voce di Bentner come possibile piano B da seguire. Sì, anche certo è che Drogba resta come dire, una bella suggestione, perché è un giocatore che pur ultra trentenne ha dimostrato... Guarda, io sono d'accordo con tutti i tifosi juventini che dicono sarebbe la soluzione ideale, cioè non il top player preso tanto per prenderlo, tanto perché lo si deve fare, ma un giocatore anche di grande carisma, un giocatore che ha appena vinto la Champions League, un giocatore indiscutibile, anche se non futuribile come Didier Drogba, quindi sarebbe questa la soluzione migliore. Effettivamente capisco come la pista sia molto complicata da percorrere. Sì, adesso mancano poco più di 50 ore alla fine del mercato, certo un attaccante arriverà, poiché per la Juve sia in effetti un top player o un giocatore normale che comunque vada a colmare un buco, una lacuna nel reparto d'attacco, quello lo vedremo in queste ore. Diciamo che Drogba è una grossa suggestione, certi contatti ci sono stati e a Torino stanno riflettendo seriamente su queste ipotesi, ma al momento si vagliano altiste, tra cui appunto nella tarda serata di ieri si parlava con insistenza di Bentner, che dell'Arsenal danese, che negli ultimi giorni è stato un po' associato a tutte le grandi del nostro campionato. Sì, il Milan fa ancora qualcosa secondo te? Sì, sicuramente il centrocampista. Sicuramente si è reso conto di aver bisogno di un uomo davanti alla difesa. Montolivo ha dimostrato domenica pomeriggio di non essere quel giocatore, di non avere quelle caratteristiche adatte per fare il regista basso, diciamo. Allegri chiede con insistenza un centrocampista al Milan. Io credo che uno fra De Jong o Diarra prima delle 19 del 31 arriverà. Grazie Monica, buon lavoro. A voi, buon pomeriggio grazie, a tutti. Grazie a Monica Colombo del Corriere della Sera. Io torno con grande piacere a parlare con i miei amici ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Messaggi 349-238-6666. Luca, provincia di Udine, già immagino l'argomento. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei parlare, spezzare una lancia a favore di Mike Oswald ieri sera. Sì, tempo che sono rimasto malissimo sulle immagini che ho visto da TV di giornalisti che ridevano per il rigore calciato in quella maniera di qua e di là. Se probabilmente segnava era un grandissimo campione. Sì, non era il caso però in un momento così, secondo me. Ok, l'anno scorso Cavani a Udine ha tirato rigore addosso a Andanovic e nessuno si è permesso di ridere di contro. Totti ha tentato il cucchiaio, Andanovic è rimasto fermo, gliel'ha parato. Nessuno si è permesso di prendere in giro Totti. Sì, quindi io dico che però sono delle decisioni che un giocatore di prendere al momento ha pensato di tirarlo così, non doveva tirarlo così, sono io primo a dirlo, non doveva tirarlo così, ma il fatto di ridergli contro mi sembra un po' esagerato. Eccessivo, offensivo, questo sì, però insomma bisogna avere anche una... Insomma, non mi piace chiamarla intelligenza, però se Totti o Pirlo vanno a prendersi un rischio di quel tipo, insomma, ne hanno hanno anche un palmarès che glielo consente, no? Sono dei campionissimi, hanno probabilmente anche la freddezza necessaria. Se un giocatore appena arrivato, eccetera, vuole fare omago, come lo soprannominano, o il fenomeno, beh, ha sbagliato qualcosa. Cioè, forse la parola chiave è umiltà, di fare, se non ne hai le carte in regola, di fare quello che sai fare, di fare delle cose un po' più banali, normali, semplici. Questa è la mia idea. Marco, Parma. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. premetto che mi dispiace moltissimo per Moglie, faccio a cucchiaio del mago di Udine, perché credo che l'Udine l'Udinese meritava tantissimo di andare. Sì. Ma io volevo parlare di Milan. Lei non pensa che si stia piano piano preparando un'operazione di vendita stile Paris Saint-Germain, stile Manchester City? Cioè, i grandi brand, cioè, il Manchester e il PSG sono sicuramente dei brand che non erano paragonabili a quello del Milan, come palmarès, come tutto, quindi il brand Milan credo che sia molto forte anche da acquistare. Ma questa vendita di contratti, questa o prendere giocatori giovani che comunque poi possono essere di prospettiva, non possono essere comunque segnali sintomatici, perché credo che la famiglia Berlusconi comunque, se non investe ora, prima del fair play finanziario, non credo che nei prossimi anni comunque possa garantire degli grossi acquisti. Ma sai, siamo, Marco, siamo alle ipotesi, perché questa voce della, insomma, della vendita del Milan è diverso tempo che è in giro e ogni volta è stata puntualmente smentita, quindi se esce sarà smentita anche questa volta. Certamente il brand del Milan è uno dei più appetibili del calcio internazionale. Quello che io dico è che per gli investitori stranieri, come la nostra storia dimostra, al di là dell'esempio di Roma, dove ieri Pallotta, che è un serio e grande uomo d'affari americano, è diventato ufficialmente presidente, ebbene, prima di investire in un calcio italiano che ha un suo modo di vivere diverso, che ha sue regole particolari e che soprattutto viene gestito in maniera retrograda rispetto a come è gestito il calcio in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che sia una giungla molto difficile da affrontare per gli investitori stranieri, anche quando stiamo parlando di grandi brand come quello del Milan. Duilio, provincia di Milano. Buongiorno. Dunque, milanista incavolatissimo, ce l'ho su col tacchino freddo. Col tacchino freddo? Sì, il nostro allenatore. Perché tacchino freddo? Ma perché secondo me non emana, non, anche durante l'intervista, è una cosa orrenda con le sue pause grattate, eccetera, eccetera. Poi, no, questo volevo dire, no? Io ho capito da milanista, quando gli hanno rinnovato il contratto, scudetto perso, ho capito tutto e si sta avverando quello che io avevo così. Cosa aveva capito? Che avrebbero smontato la squadra? Sì, no, perché se Berlusca aveva delle mire come in passato, un allenatore così, un sarto così, no, non l'avrebbe tenuto, avrebbe fatto la fine dei Zaccheroni. Poi, se mi cosa ancora possibile? Sì. Cioè, poi può fare la fine di Zaccheroni, l'ho detto nei giorni scorsi, ma non solo di Zaccheroni, anche di Tabarez. Sì, tutta gente. C'è gente che ha fatto quella fine, insomma, lo sappiamo. Dica. No, così. Internamente, se non hanno soldi da spendere, no? Io spendo il tacchino freddo agli allievi nazionali. Il Pippo reintegrato in squadra e Tassotti allenatore. Ah, addirittura Inzaghi, che ha smesso di giocare, lo reintegra lei? Torniamo... Tre settimane d'allenamento, no, è una provocazione. Sì, ma è eccessiva, lo lasci fa strada come allenatore Pippo Inzaghi. Allegri gli allenatori, gli allievi nazionali, vabbè, lasciamo perdere. Però insomma, a questo punto si tratta di mettere le pezze che si possono mettere. E di capire quanto è ancora pieno il bicchiere di fiducia che Allegri ha presso la proprietà. Non credo colmo fino all'orlo, questo no. Ritorniamo con Fabio da Verona. Eccomi qua. Eccolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione, perché siete veramente, veramente in gamba. Grazie. L'ascoltatore di prima mi ha anticipato. Su cosa? Sul Milan? Tutta la vita in panchina. Pippo Inzaghi tutta la vita in panchina a fare che cosa? Ma perché secondo me a fare l'allenatore, il carisma, non a fare il giocatore reintegrato, no? Ma diciamo che io l'unica roba che mi farebbe paura di Pippo Inzaghi è che se qualche giocatore fa quello che ho visto anch'io domenica a Milano, entra in campo e gli corre dietro. Senta, le faccio sentire già che è lì, cosa dice il nuovo attaccante del Milan. Lei stia lì, è Fabio Bojan. È giusto che sono molto contento, un compleanno così è veramente importante per me. No, questo lo valiamo, questo ci sono le cose che sono vere, io ho uscito questo, sono molto felice qua. No, io Io per me ho sempre detto che io sono molto contento dell'anno che ho fatto a Roma, per questo sono qua, no? Ho fatto un buon campionato e io sono molto felice di aver giocato a Roma e ho tanta stima al tifosi romanista. No, io solo posso promettere che io darò tutto il massimo per questa maglia, che per me è un onore e che voglio affrontare questa opportunità dimostrando tutto, no? Bojan Kerkic, nuovo attaccante del Milan. Fabio, dica. Ce n'è un altro in panchina, c'era in panchina anche domenica un altro forte che viene fuori dalla cantera, si chiama Carmona, della primavera del Milan, che è stato convocato in prima squadra, è un altro che viene fuori dalle giovanili del Barcellona, ed è un piccolo Bojan. Io vorrei che Allegri e anche la società, i giovani fuori, è giusto comprarli, ma quelli che hai in casa? Sì, siamo sempre lì. Lei ha la certezza di quanto valgano questi giovani? Sì. Io sono un fedele del Milan, guardo Milan Channel, vado a vedere gli allievi, ho visto Pippo Inzaghi allenare, guardo la primavera, ci sono 3 o 4 giocatori come il De Sciglio, non si può pretendere di andare a portarli in Champions League a 17 anni, ma ci sono i giocatori forti senza bisogno di spendere fuori. Bisogna capire forti quanto, perché noi italiani in generale abbiamo tutti una gran voglia di, e facciamo anche molta demagogia sui giovani, vorremmo vederli in campo, vorremmo scoprirli eccetera, però no, non è che si protesta se ci sono, si tratta di capire, e solo vedendoli in campo tutti i giorni si può capire se sono maturi per certi livelli e se sono bravi abbastanza per certi livelli, perché io credo che se un allenatore, anzi un pool di allenatori come quelli dei grandi club, valuta un giocatore pronto per quei palcoscenici, allora lo fa giocare, soprattutto in situazioni come queste. Non basta essere giovani per arrivare subito in Serie A, bisogna essere anche bravi ad avere i numeri. Bisogna essere bravi ad avere i numeri, poi possiamo fare gli esperimenti. Bisogna essere in grado di metterne dentro qualcuno, giovane, esperto, il giovane, l'esperto, però bisogna cominciare a buttarli dentro. Se c'è questo fair play agonistico, se c'è tutto questo fair play finanziario, come si chiama, tutte queste leggi che mi sembra stia rispettando solo il Milan, chiusa la parentesi. Ma anche l'Inter ha fatto qualcosa, anche l'Inter ha fatto qualcosa liberandosi di molti contratti pesanti, eccetera, eccetera, eccetera. Certamente non lo stanno rispettando gli arabi padroni del calcio europeo in questo momento. Se ne infischiano bellamente del fair play finanziario, poi un giorno andranno a rendergliene conto. E loro... non solo nel calcio se ne stanno infischiando, quelli se ne infischiano di tutto. Se ne infischiano di tutto e staccano dei grandi assegni. Grazie Fabio, alla prossima. Tanto per la cronaca, solo 2 squadre italiane si presenteranno al sorteggio della fase a gironi di Champions League. Come sapete, sono la Juventus e il Milan, e non accadeva da 13 stagioni. Filippo da Torino. Buongiorno, grazie. Volevo fare questa riflessione proprio per l'Udinese, no? Cioè, il discorso che tutti gli anni Pozzo fa una squadra che puntualmente, cioè sistematicamente arriva in Champions come negli ultimi 2 anni, facendo i miracoli, giocando benissimo, per cui ci sono state anche però Filippo, ci sono state anche stagioni più difficili in cui l'Udinese... No, ma per carità, quello che io volevo capire questo qua, cioè una volta che arrivi in Champions o la federazione ti dà il diritto, visto che puntualmente vendi sistematicamente tutti i giocatori che hai, quelli che hanno mercato, a questo punto si può chiedere anche di cedere il diritto di andare in Champions a una squadra che magari ha giocato in Champions fino a marzo, per cui ha perso quei 7-8 punti in campionato, perché l'Udinese in Europa League la snobba sistematicamente sempre. Questo è un errore che tutte le squadre italiane fanno. È una cosa che a me fa arrabbiare moltissimo, perché io vedo all'estero, al di là del ranking UEFA, dei punti, eccetera, eccetera, vedo all'estero la serietà con cui si gioca l'Europa League, vedo degli stadi pieni, vedo la voglia di arrivare in fondo ad un torneo internazionale comunque importante, che comunque sei andato a cercarti, che comunque hai conquistato sul campo l'anno prima, poi lo giochi come la Coppaccia Italia e allora E allora a me questo fa molto arrabbiare. Comunque, a proposito della cessione del diritto, non penso si possa fare, non credo neanche sia giusto. Quindi io credo che l'Udinese benissimo faccia a proseguire nella sua politica sportiva, che non sempre negli ultimi anni ha portato a questo tipo di risultati. Ci sono state anche stagioni di grande sofferenza e di costruzione, ma fa parte della politica della politica societaria, cioè si costruiscono giocatori che costruiscono poi a loro volta squadre importanti e che poi vengono man mano ceduti al giusto prezzo. E in questo modo, se c'è una, se ci può essere una definizione comprensibile di fair play finanziario, credo sia questa. Ecco. Matteo da Modena? Ecco, sì, purtroppo avete appena fatto l'argomento di cui volevo parlare io. Confermo intanto, Matteo, le confermo, sì, che c'è bisticcio tra Juventus e Fiorentina. Oggetto del contendere Berbatov, che pare confermato, stia parlando con la Juventus mentre era atteso a Firenze, all'aeroporto di Firenze, per firmare il contratto e andarsi addirittura ad allenare. Quindi ci sono bisticci. Questo per confermare lo stile baruffa nell'aria. Questo per confermare lo stile Juve. Dica. Sì, secondo me l'Udinese, o come la Sampdoria qualche anno fa, secondo me sono la rovina del calcio italiano, perché già è stato perso un posto per la Coppa dei Campioni, dato che le nostre squadre, quando vanno in Europa, o sì, le snobbano, come diceva prima, o non riescono nemmeno a passare i preliminari. No, allora attenzione Matteo, non sono la rovina del calcio italiano, piuttosto, se stiamo parlando di punteggi UEFA, di ranking UEFA, io le colpe tra virgolette le darei più a quelle che affrontano appunto l'Europa League come se fosse la Coppa Italia, quindi con tutte le riserve, senza dare dall'alto dai vertici societari l'input a giocare in maniera seria questa competizione. Quindi non credo che squadre che non riescono ad arrivare alla Champions League sia una rovina del calcio italiano. Squadre italiane in Champions League competitive al momento non ce ne sono, ok? Questo è il mio pensiero. Non parliamo del Milan, ma nemmeno la Juventus. Dica, Matteo. Ma o le squadre però si attrezzano per fare certe competizioni, oppure che lasciano perdere, perché io sono interista e lascio perdere la stagione dell'anno scorso. Però cioè, l'Inter il turno contro un Braga l'avrebbe passato sicuramente, qualche punto nel ranking FIFA l'avrebbero preso. Sicuramente, altrimenti se in Italia vogliamo arrivare ad avere soltanto due posti in Coppa dei Campioni, al massimo uno solo, cioè, non so chi ne abbia interesse. Sì, torniamo al discorso di prima, se i meriti si conquistano sul campo, l'Udinese si è conquistata quello di giocare la Champions League e nulla ha rubato, ha fatto il preliminare come l'anno scorso con l'Arsenal, è andata fuori in maniera drammatica, sportivamente drammatica, anche se vogliamo. Non vedo perché avrebbe dovuto partecipare l'Inter a questo preliminare quando è arrivata molto dietro l'Udinese nella scorsa stagione. I meriti si conquistano sul campo ed è giusto giocarseli sul campo fino in fondo. Che era atteso in volo a Firenze e invece è arrivato in volo a Torino e sta parlando con la Juve. Alex da Taormina scrive: vabbè, mi sa che Berbatov da bambino ti fava Juve giocando al Nintendo, esattamente come Gargano ieri, perché stiamo scoprendo un sacco di tifosi di vecchia data, non solo Cassano, anche Gargano, e poi sentiamo Berbatov con chi firma e per chi faceva il tifo da bambino. Chiudiamo il programma di oggi con Maurizio da Milano. Buongiorno. Riguardo a, io ho chiamato per un'altra cosa, per il discorso allenatore, cioè mi sento di difendere, pur essendo interista, il signor Allegri, sì, perché si trova in mano una squadra che assolutamente non ha voluto lui, al contrario di Stramaccioni, al contrario di Conte l'anno scorso. Cioè la figura dell'allenatore oggi gli si dà tutti addosso senza analizzare poi in che situazione si trovano. Questo si è trovato con una dozzina di giocatori, se ricordo bene, tra prepensionamenti, motivi di finanza, a gestire una squadra non assolutamente non fatta da lui, al contrario invece di Stramaccioni, che un risultatino l'ha fatto. Sì. Però gli sono stati dati dei giocatori espressamente voluti da lui, se non sbaglio, sto alle dichiarazioni di Stramaccioni, quello sì, che sulla stampa. Sì, però sono cose che un allenatore sa o che deve sapere, insomma. Sì, no? Certo, poi però, c'è anche chi dice che Allegri quello spogliatoio insomma, fosse una discreta polveriera tra Ibrahimovic, con il quale pare che i rapporti fossero ai minimi termini, Cassano, eccetera, eccetera, Allegri è da alcuni indicato come uno degli autori di questo Repulisti. Poi gli avranno detto chiaramente: guarda, amico, per comprare grandi giocatori quest'anno non ci sono i soldi. Che facciamo? Non credo che sia rimasto gratis o a dispetto dei Santi, Allegri. Vabbè, no. Senta, posso aggiunga. Sì, a parte ragione. Comunque, in quanto all'Udinese, l'Udinese è dichiaratamente una società di lucro, dimostrano i loro ultimi bilanci, sono costantemente in attivo. Sì. Lo fa per soldi, il signor Pozzo. Va bene così, cioè io posso fare la stessa cosa. Ma anch'io e lo fa per soldi, e lo fa in maniera splendida, peraltro, continuo a dirlo. Grazie a tutti, anche a lei Maurizio. Chiudiamo qui e torniamo domani dalle 2 alle 3 con A Tempo di Sport. Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Ciao a tutti.